ad alta voce. Sandra Toffolatti legge Il diario di Etty Hillesum. Traduzione di Chiara Passanti. Martedì notte, luna. Una volta ho scritto che volevo leggere la tua vita fino all'ultima pagina. Ora l'ho fatto. Provo una gioia così singolare per tutto quanto, per com'è stato e perché è stato certamente un bene, altrimenti non potrei sentirmi così forte, lieta e sicura. Ecco, ora riposi nelle tue due camerette. Tu, caro, grande, buono. Una volta ti ho scritto: il mio cuore volerà sempre e da ogni luogo di questa terra verso di te, come un uccello, e sempre ti troverà. E un'altra volta ho scritto nel diario di Tide: sei diventato talmente parte del cielo che si incurva sopra di me, che mi basta alzare gli occhi per esserti accanto. E se anche mi trovassi in una cella sotterranea, quel pezzo di cielo si stenderebbe dentro di me e il mio cuore volerebbe a lui come un uccello. Ed è per questo che tutto è così semplice, sai, straordinariamente semplice e bello e ricco di significato. Avrai ancora mille cose da chiederti e da imparare da te. Ora mi toccherà far tutto da sola. Sai, mi sento così forte e sono certa che me la caverò. Sei tu che hai liberato le mie forze, tu che mi hai insegnato a pronunciare con naturalezza il nome di Dio. Sei stato l'intermediario tra Dio e me. E ora che te ne sei andato, la mia strada porta direttamente a Dio e sento che è un bene. Ora sarò io l'intermediaria per tutti quelli che potrò raggiungere. Sono seduta alla mia scrivania, vicino alla mia piccola lampada. Ti ho scritto così spesso da qui e anche ho scritto così spesso di te. Devo confessarti una cosa strana. Non ho mai visto una persona morta. In questo mondo, in cui migliaia di uomini muoiono ogni giorno, io non ho mai visto un cadavere. Tide dice: è solo un piccolo soprabito. Lo so, eppure mi sembra altamente significativo che proprio tu sia il primo morto che vedrò. Oggi si pasticcia e si scherza con le cose grandi, con le cose ultime di questa vita. Molti si rendono malati o continuano a esserlo per paura di essere portati via. Molti addirittura si ammazzano. Sono riconoscente che la tua vita sia finita naturalmente, che anche a te sia toccato un po' di dolore da portare. Tide dice: questo dolore gli è stato assegnato da Dio e così gli è stato risparmiato quello che gli avrebbero inflitto gli uomini. Tu, caro uomo viziato, probabilmente non saresti stato in grado di sopportarlo. Io sì che ne sono capace e in questo modo continuerò la tua vita e ti trasmetterò ad altri. Quando si è arrivati al punto di sentire la vita come una cosa bella e ricca di significato, anche di questi tempi, proprio di questi tempi, allora è come se tutto ciò che avviene debba venire così e non altrimenti. Essere di nuovo seduta alla mia scrivania. E domani non posso tornare a Westerbrook. E così sarò ancora una volta con tutti gli amici quando sotterreremo insieme i tuoi poveri resti mortali. Sai com'è? Queste cose devono pur succedere. È una consuetudine igienica degli uomini. Ma saremo tutti quanti insieme e il tuo spirito sarà in mezzo a noi e Tide canterà per te. Se sapessi quanto sono felice di poter esserci anch'io. Sono ritornata proprio in tempo. Ho baciato ancora la tua bocca vizzita e morente. Tu hai preso ancora una volta la mia mano e l'hai portata alle tue labbra. Una volta hai detto, quando sono entrata in camera tua, la ragazza viaggiatrice. Un'altra volta hai detto, ho dei sogni così strani. Ho sognato di essere battezzato da Cristo. Ho sostato con Tide accanto al tuo letto. Per un momento abbiamo creduto che tu stessi morendo e che i tuoi occhi si spegnessero. Tide mi ha abbracciata, io ho baciato la sua cara, pura bocca e lei ha detto molto piano: ci siamo trovate. Eravamo accanto al tuo letto. Come saresti stato felice se ci avessi viste in quel momento, proprio noi due. Magari ci hai viste, anche se sembrava che in quell'istante tu stessi morendo. Sono pure così riconoscente che le tue ultime parole siano state: Erta, io spero. Quanto hai dovuto lottare per rimanere fedele, ma la tua fedeltà ha vinto su tutto il resto. Proprio io te l'ho resa così difficile a volte, lo so. Ma è da te che ho anche imparato cosa siano la fedeltà, la lotta e la debolezza. In te c'erano tutto il male e tutto il bene che possono esserci in un uomo: i demoni, le passioni, la bontà e l'amore per gli uomini, tutto era in te, che sapevi tanto capire, che sapevi cercare e trovare Dio. Hai cercato Dio dappertutto, in ogni cuore umano che ti si è aperto, quanti ce ne sono stati, e dappertutto hai trovato un pezzetto di Lui. Non hai mai rinunciato a questo. Potevi essere così impaziente nelle piccole cose, ma in quelle grandi eri così paziente, così infinitamente paziente. È stata proprio Tide a venire a dirmelo stasera. Tide, col suo viso luminoso e caro. Ci siamo sedute un momento in cucina. Di là c'era Joop, il mio compagno d'armi a Westerbrook. E più tardi c'era Pan nell'altra stanza. E Tide ha messo le mani sul tuo pianoforte e ha cantato un breve canto: in alto mio cuore, con gioia. Ora sono le 2 di notte e la casa è così silenziosa. Devo raccontarti una cosa strana. Credo che capirai. Alla parete è appeso un tuo ritratto. Vorrei farlo a pezzi e gettarlo via, e così facendo avrei la sensazione di esserti più vicina. Tu e io non ci siamo mai chiamati per nome. Per molto tempo ci siamo dati del lei, e solo più tardi, molto più tardi, mi hai dato del tu. E il tuo tu è stato per me una delle parole più carezzevoli che mi siano mai state dette da un uomo, e sai bene che ero abituata a sentirne tante. Firmavi sempre le tue lettere con un punto interrogativo, e così facevo anch'io. Cominciavi sempre le tue lettere con Hören Sie mal, il tuo caratteristico stia un po' a sentire. La tua ultima lettera cominciava con Carissima, ma per me sei senza nome, così senza nome come lo è il cielo, e vorrei metter via tutti i tuoi ritratti e non guardarli mai più. È sempre ancora troppa, troppa materia. Voglio continuare a portarti in me senza nome e ti trasmetterò ad altri in un semplice, tenero gesto che una volta non conoscevo. Mercoledì mattina, le 9, aspettando dal dottore. Spesso, a Westerbrook, quando andavo in giro con quei chiassosi, litigiosi e fin troppo attivi membri del consiglio ebraico, mi veniva da pensare: su, lasciatemi essere un pezzetto della vostra anima. Lasciatemi essere la baracca in cui si raccoglie la parte migliore, che esiste sicuramente in ognuno di voi. Io non ho bisogno di far così tanto, io voglio solo esserci. Lasciatemi essere l'anima in questo corpo. e prima o poi trovavo in ognuno di loro un gesto o uno sguardo più nobile, di cui credo fossero appena coscienti, e me ne sentivo il custode. 16 settembre, mercoledì, le 3 di pomeriggio. Tornerò ancora una volta in quella strada. 3 strade, un canale e un ponticello mi separavano da lui. È morto alle 7:15 di ieri, proprio il giorno in cui scadeva il mio permesso. Ora vado ancora una volta da lui. Poco fa ero in bagno, ho pensato, adesso vado dal mio primo morto. E la cosa, in fondo, non mi diceva nulla. Ho pensato, devo fare qualcosa di solenne, di straordinario, e mi sono inginocchiata sulla stuoia di cocco del piccolo bagno. Ma poi ho pensato, è convenzionale. Quanto siamo pieni di convenzioni, di preconcetti sui comportamenti da tenere in determinate situazioni. A volte, inaspettatamente, qualcuno si inginocchia in un angolino di me stessa, quando cammino per la strada o sto parlando con una persona, e quel qualcuno che si inginocchia sono io. Ora, su quel letto così familiare, è distesa una salma. Quella coperta di creton. In fondo non ho nessun bisogno di tornare là. Tutto si compie da qualche parte in me stessa, tutto. In me ci sono vasti altipiani senza tempo né confini. Tutto si compie lì. Ora percorrerò di nuovo quelle poche strade. Quante volte le ho percorse, anche con lui, sempre immersi in dialoghi interessanti e fruttuosi. E quante volte le percorrerò ancora, ovunque mi troverò, su quegli altopiani interiori della mia vita più profonda. Dovrei forse fare una faccia triste o solenne? Sono forse triste. Vorrei congiungere le mani e dire, ragazzi, sono così felice e riconoscente e trovo la vita così bella e ricca di significato, proprio così. E lo dico mentre sto accanto al letto del mio amico morto prematuramente e mentre io stessa posso essere deportata ogni momento in una terra sconosciuta. Mio Dio, ti sono così riconoscente per tutto quanto. Continuerò a vivere con quella parte dell'uomo morto che vive in eterno e risveglierò alla vita ciò che è morto nei vivi e così non ci sarà nient'altro che vita, un'unica grande vita, mio Dio. Tide canterà ancora una volta per lui. Penso con gioia al momento in cui ascolterò la testimonianza luminosa della sua voce. Iop, compagno d'armi, sono in viaggio con te. O piuttosto, ti parlo di tanto in tanto e sei molto nei miei pensieri e sono così riconoscente di poterti trasmettere un poco di ciò che non posso fare a meno di trasmettere. È così significativo che tu sia entrato nella mia vita. Non avrebbe potuto essere diversamente. Ciao. 17 settembre, giovedì mattina, alle 8. Il sentimento che ho della vita è così intenso e grande, sereno e riconoscente, che non voglio neppure provare a esprimerlo in una parola sola. In me c'è una felicità così perfetta e piena, mio Dio. Probabilmente la definizione migliore sarebbe di nuovo la sua riposare in se stessi. E forse sarebbe anche la definizione più completa di come io sento la vita. Io riposo in me stessa. E questo me stessa, la parte più profonda e ricca di me in cui riposo, io la chiamo Dio. Nel diario di Tide ho trovato spesso questa frase: Padre, prendilo dolcemente fra le tue braccia. È così che mi sento, sempre e ininterrottamente, come se stessi fra le tue braccia, mio Dio, così protetta e sicura e impregnata d'eternità, come se ogni mio respiro fosse eterno e la più piccola azione o parola avesse un vasto sfondo e un profondo significato. Esse mi aveva scritto in una delle sue prime lettere: e se posso trasmettere qualcosa di questa forza sovrabbondante, sono contento. Mio Dio, è un bene che tu abbia fatto fermare il mio corpo. Devo guarire completamente per fare ciò che devo. Ma forse anche questa è un'idea convenzionale. Lo spirito non dovrebbe forse continuare a lavorare e a essere creativo anche quando il corpo è malato? E amare e hineinhorchen, ascoltare dentro se stessi, gli altri, il contesto di questa vita e te. Hineinhorchen. Vorrei trovare una buona traduzione olandese di questa parola. In fondo, la mia vita è un ininterrotto ascoltare dentro me stessa, gli altri, Dio. E quando dico che ascolto dentro, in realtà è Dio che ascolta dentro di me, la parte più essenziale e profonda di me che ascolta la parte più essenziale e profonda dell'altro. Dio a Dio. Quanto sono grandi le necessità delle tue creature terrestri, mio Dio. Ti ringrazio perché lasci che tante persone vengano a me con le loro pene. Parlano tranquille, senza sospetti, e d'un tratto viene fuori tutta la loro pena e si scopre una povera creatura disperata che non sa come vivere. E a quel punto cominciano i miei problemi. Non basta predicarti, mio Dio. Non basta disseppellirti dai cuori altrui. Bisogna aprirti la via, mio Dio. E per far questo bisogna essere un gran conoscitore dell'animo umano, un esperto psicologo. Rapporti con padre e madre, ricordi giovanili, sogni, sensi di colpa, complessi di inferiorità, insomma tutto quanto. In ogni persona che viene da me io mi metto a esplorare con cautela. I miei strumenti per aprirti la strada negli altri sono ancora ben limitati, ma esistono già in qualche misura. Li migliorerò pian piano e con molta pazienza. E ti ringrazio per questo dono di poter leggere negli altri. A volte le persone sono per me come case con la porta aperta. Io entro e giro per corridoi e stanze. Ogni casa è arredata in modo un po' diverso, ma in fondo è uguale alle altre. Di ognuna si dovrebbe fare una dimora consacrata a te, mio Dio. Ti prometto che cercherò sempre di trovarti una casa e un ricovero. In fondo è una buffa immagine. Io mi metto in cammino e cerco un tetto per te. Ci sono così tante case vuote. Te le offro come all'ospite più importante. Perdonami questa metafora non troppo sottile. Di sera, 10:30. Mio Dio, dammi pace e fammi superare ogni cosa. C'è talmente tanto. Devo mettermi una buona volta a scrivere. Ma prima devo cominciare a vivere in modo disciplinato. Ora si spegne la luce nella baracca degli uomini. Ma se non hanno neppure la luce? Dove sei stato stasera, piccolo compagno d'armi? Certe volte mi prende una gran tristezza. Ora non posso più uscire dalla mia baracca e trovarmi davanti alla grande brughiera. Passeggio un pochino per il campo e non passa molto tempo che da una parte o dall'altra spunta fuori il mio compagno d'armi, con la sua faccia abbronzata e quella piega dritta e indagatrice tra gli occhi. Quando comincia a imbrunire sento da lontano le prime note della quinta di Beethoven. Vorrei poter dominare tutto con le parole. Questi 2 mesi tra il filo spinato, che sono stati i mesi più intensi e più ricchi della mia vita e una tale conferma dei valori più importanti e più alti per me. Mi sono così affezionata a quel Westerbrook e ne ho nostalgia. E là, quando mi addormentavo nella mia stretta cuccetta, avevo nostalgia della scrivania a cui sono seduta qui. Ti sono così riconoscente, mio Dio, perché in ogni luogo mi rendi la vita così bella che ne ho nostalgia quando ne sono lontana. Però questo mi rende anche la vita pesante e difficile. Ecco, ora sono 10:30 passate. Nella baracca si spegne la luce. Devo andare a dormire. La paziente deve fare vita tranquilla. Così è scritto in quel certificato piuttosto impressionante. Devo anche mangiare riso e miele e altre delizie simili. Mi viene in mente quella donna dai capelli bianchi come la neve e dal nobile viso ovale, che aveva un pacchetto di pane tostato nel suo tascapane. Era l'unica provvista che si portava nel suo viaggio in Polonia. Doveva seguire una dieta molto stretta. Era infinitamente cara e calma e aveva una statura alta da ragazza. Un pomeriggio ero seduta al sole con lei, davanti alle baracche di transito. Le avevo dato un libro della biblioteca di Speer, Die Liebe, di Johanna Müller, e le aveva fatto molto piacere. Più tardi aveva detto ad alcune ragazzine che si erano unite a noi: «Ricordatevi bene che domattina presto, quando partiremo, ognuna di noi dovrà piangere soltanto 3 volte». E una ragazzina aveva risposto: «Non ho ancora ricevuto il mio tagliando per piangere». Sono circa 11:00. Com'è trascorsa in fretta questa giornata. Sarà meglio che vada a dormire. Domani Tide si metterà il suo tailleur grigio chiaro e canterà in alto mio cuore con gioia, nella sala del cimitero. Per la prima volta siederò in una vettura con le tendine nere. Avrei ancora tanto da scrivere per giorni e giorni. Concedimi pazienza, mio Dio, concedimi una pazienza del tutto nuova. Questa scrivania mi è ridiventata familiare e l'albero dietro la mia finestra non sembra che giri più. Avrai i tuoi progetti a permettermi di stare di nuovo seduta qui. Farò del mio meglio. E ora, per davvero, buonanotte. Iopi, ho tanta paura che tu abbia la vita difficile e vorrei tanto aiutarti là dove sei. E ti aiuterò. Ciao. Domenica sera. Mettere in parole, suoni, immagini. Molti uomini sono ancora geroglifici per me, ma pian piano imparo a decifrarli. È la cosa più bella che conosca, leggere la vita degli uomini. A Westerbrook era come se mi trovassi davanti al nudo steccato della vita, davanti alla sua ossatura, libera da qualsiasi costruzione esterna. Mio Dio, ti ringrazio perché mi insegni a leggere sempre meglio. So che prima o poi dovrò scegliere e sarà molto difficile. Se voglio veramente scrivere, se voglio provare a registrare tutto ciò che in me chiede sempre più di essere messo in parole, allora dovrò appartarmi dagli altri ben più di quanto non faccia ora. Dovrò chiudere finalmente la mia porta e mettermi a lottare contro una materia non facilmente controllabile. E sarà una battaglia dura e felice al tempo stesso. Dovrò ritirarmi da una piccola società per rivolgermi a una società più grande. Forse non si tratta neppure di questo. Forse è il puro istinto poetico, il desiderio di materializzare qualcosa della propria ricchezza di immagini. È un fatto talmente elementare che non c'è neppure bisogno di spiegarlo. A volte mi domando se io non viva troppo intensamente. Io vivo, godo e consumo la vita al punto che non ne rimane più niente. Forse è necessario che un qualche resto rimanga perché si produca la tensione che induce a creare. Io parlo molto con le persone, soprattutto ultimamente. Parlo sempre ancora in modo più espressivo e lucido di quanto non sappia scrivere. A volte penso che non dovrei sprecare le mie energie a parlare, che dovrei tirarmi indietro e proseguire la mia ricerca silenziosa sulla carta. Una parte di me lo vorrebbe, un'altra non riesce ancora a decidersi e si disperde in parole con gli altri. Max, hai visto quella donna sordomuta all'ottavo mese di gravidanza col marito epilettico? Max, quante donne russe al loro nono mese sono cacciate in questo momento dalle loro case e afferrano ancora il fucile. Il mio cuore è una chiusa che ogni volta arresta un flusso ininterrotto di dolore. Iopi nella brughiera, seduto sotto il gran cielo stellato mentre parlavamo della nostalgia. Io non ho nostalgia, io mi sento a casa. Ho imparato tanto da quel discorso. Si è a casa. Si è a casa sotto il cielo. Si è a casa dovunque su questa terra, se si porta tutto in noi stessi. Spesso mi sono sentita, e ancora mi sento, come una nave che ha preso a bordo un carico prezioso. Le funi vengono recise e ora la nave va, libera di navigare dappertutto. Dobbiamo essere la nostra propria patria. Ci ho messo 2 sere per potergli confidare questa cosa così intima, la cosa più intima che ci sia. E volevo tanto dirgliela, quasi per fargli un regalo. E allora mi sono inginocchiata in quella grande brughiera e gli ho detto di Dio. Il dottore ha naturalmente torto. Una volta una cosa simile avrebbe potuto rendermi insicura. Ora ho imparato a guardare attraverso le persone e le parole con la mia intelligenza. Lei vive troppo con lo spirito. Lei non si lascia andare abbastanza. Lei non vive le cose elementari della vita. Avrei quasi voluto chiedergli. Dovrei forse coricarmi con lei su questo divano? Non sarebbe sembrata un'osservazione molto sottile, ma il suo monologo andava in quella direzione. E ancora, lei non vive abbastanza nella realtà. Più tardi avevo pensato, è un ragionamento sbagliato. La realtà, appunto. La realtà è che in molti luoghi di questa terra ci sono uomini e donne che non possono stare insieme. Gli uomini sono al fronte, i campi, le prigioni, le separazioni. Questa è la realtà che si deve affrontare. E ci si dovrebbe allora rinchiudere nei desideri inutili e commettere il peccato di Onan. Perché non si potrebbe trasformare quell'amore che non si può scaricare sull'uno o sull'altro sesso in una forza che torni a profitto della comunità degli uomini e che forse si potrebbe anche chiamare amore? E se ci si adopera in questo senso, non si poggia proprio sul terreno della realtà? Una realtà meno tangibile di un uomo e una donna in un letto, ma non esistono forse altri tipi di realtà? C'è qualcosa di infantile, quasi di sottosviluppato, in un ometto attempato che di questi tempi, mio Dio, proprio di questi tempi, si mette a parlare di lasciarsi andare. Mi piacerebbe tanto sapere a che cosa pensasse veramente. Dopo la guerra, 2 correnti attraverseranno il mondo, una corrente di umanesimo e un'altra di odio. Allora ho saputo di nuovo che avrei preso posizione contro quell'odio.